GR Sport. Buongiorno da Dario Ricci. A Euro 2008 non potrà scendere in campo, ma Fabio Cannavaro ha scelto di rimanere comunque vicino alla nazionale di cui è il capitano. L'azzurro verrà infatti operato alla caviglia infortunata nei prossimi giorni e poi comincerà la rieducazione nel ritiro dell'Italia a Baden. Il CT Donadoni intanto pensa alle alternative tattiche. Dal mio punto di vista è chiaro che mancare un giocatore dello spessore, della qualità di Fabio, pesa indubbiamente, però confido anche sulle capacità e sulle alternative che ci sono. Colui o coloro che prenderanno il suo posto sanno di questa ulteriore, diciamo, responsabilità. Bene o male hanno giocato già tutti quanti e hanno dimostrato di essere all'altezza della situazione. E sull'infortunio di Cannavaro le parole di chi sa bene cosa vuol dire essere il trascinatore di una nazionale. Michel Platini, oggi presidente dell'UEFA, a Rai Sport. È molto brutto per lui soprattutto, più dopo per l'Italia, perché è uno fondamentale della difesa. L'incidente moralmente per una persona come Cannavaro sembra brutto, perché lui ci tiene a cuore, il capitano. Ha alzato la Coppa del Mondo e pallone d'oro, vedrà i suoi compagni sul campo. È una brutta notizia per lui e per l'Italia. Brillante, ambizioso, con un italiano pressoché perfetto. Così si è presentato ieri José Mourinho al suo primo giorno da allenatore dell'Inter. Voglio lavorare con una squadra di 21 giocatori più 3 portieri. Mi piacciono i giocatori, la squadra è una bella squadra. Non ho bisogno di un cambio drammatico nella squadra. Penso che è normale. Abbiamo bisogno di 2-3 giocatori per migliorare, per essere più competitivo, ma anche per me io voglio avere la possibilità di cambiare un po' la filosofia calcistica. E scattano oggi con le gare di andata i play-off di Serie B che decideranno l'ultima promossa in A. Alle 21 Brescia Albino Leffe, preceduta alle 19 da Pisa Lecce. E ora il basket con gara 1 della finale scudetto. Più 12, gara 1 è in cascina. Siena tiene fede al pronostico, si aggiudica la prima delle potenziali 7 sfide contro la Lotto Mantica Roma. Di fronte ad 8.000 persone, i campioni d'Italia in carica fanno propria la prima delle 2 sfide consecutive in casa per 85-73. Ai capitolini non è mancata l'opzione dell'allungo sul 22-17 nel primo quarto, conseguente ad un tecnico fischiato a Cauchena. Sugli scudi Terrell McIntyre, il play bianco-verde, autore di 34 punti. Suo in particolare l'allungo a suon di triple nel terzo quarto, quando la percentuale di tiro degli ospiti era sceso sotto al 40%. Presto appesantito dai falli, Ukic tra i romani ha fatto vedere buone cose Jaber. Domani in gara 2 alle ore 21, ancora a Siena. Massimo Sollazzini, GR24, Il Sole 24 Ore, Siena. Max Mosley è stato confermato alla guida della Federazione Internazionale dell'Automobilismo dal voto dell'Assemblea Generale della FIA riunita a Parigi. 103 i favorevoli, 55 i voti contrari. Mosley quindi rimarrà in carica fino all'ottobre 2009, malgrado le polemiche per la sua partecipazione a un'orgia di stampo nazista filmata e resa nota dai tabloid inglesi. Per la pallavolo l'Italia maschile è sempre più vicina alla qualificazione per Pechino 2008. Ieri gli azzurri nel torneo preolimpico di Tokyo hanno battuto 3-0 l'Australia. Oggi la sfida con l'Algeria. Chiudiamo col tennis, sarà Nadal Djokovic la prima semifinale del torneo maschile del Roland Garros sulla terra rossa di Parigi. Lo spagnolo, 3 volte vincitore proprio a Parigi, si è qualificato battendo Almagro in 3 set. Il serbo Djokovic ha eliminato il lettone Gulbis sempre in 3 set. E Serbia protagonista anche tra le donne, la prima semifinale sarà un derby tra Jelena Jankovic e Ana Ivanovic. Vi ricordo l'appuntamento con A Tempo di Sport alle 14. Ancora una buona giornata da Dario Ricci.